internet. Anche stasera è lento. Ah, vabbè, quello sì. Adesso per dire, io stavo facendo, lascia vedere come era. Fastcom. Vediamo un attimino se fa. Perché allora fast.com. Perché ti dà la linea, vediamo un attimino com'è. Perché sul telefonino mi dava Sigue 5. Adesso per dire mi sto dando 6,9 megabyte. È pochissimo. L'ultima che mi hanno mandato 95 euro. Non c'ho. Cazzo, me ne ha fatti. Aspetta che lo faccio vedere a mio figlio Gabriele. Sì, è così. Boh, mi dà 6,9 megabyte. Una cagata. Sì. Io non so come cani andai, no? No, vabbè, ma voglio dire, caspita, se io pago per 7 giga, voglio dire, perché mi dai adesso queste cazzo di parole, 6 megabyte, boh. Ma tu c'hai un modem oppure lo usi dal telefonino? No, io ho il modem della TIM. Buona la TIM, eh? Bella compagnia ladra. Sì, e cosa vuoi mettere, fra? Sai cosa ho fatto a me la TIM? TIM, ho messo una scheda TIM, caricata, tutto, finisco la prima carica, ricarico e me ne piglia le 10 euro e me le porta via e se li prendono. Boh, ho detto sarà. Torna a caricare e se li tornano a pigliare, subito me. E fra Giugia Madre ha detto, ma così. E lei c'ha un debito, magari, io non ne ho debiti con voi. È la prima volta, è il primo mese che, cioè il secondo mese che sto caricando e c'ho debiti. Da dove c'ho io i debiti io, con voi? Se non sono mai stato con voi. No, lei è entrato, non so dove, lì mi ha fatto, no. Ha già compreso, arrivederci. Pigliato la casa, ha già fatto a pezzi la giurampata. Provate, mi ha già pigliato la sua compagnia. No, beh, ci sarebbe da farlo, eh. È che purtroppo io ne ho girato tante, purtroppo, fra. Quello che prende meglio è questa, è la TIM, perché la Vodafone, diciamo che un po' sì, un po' no, però tutte le altre compagnie non vanno bene, né Tre, né Irai, no, nulla, solo la TIM prende dove sono io, e quindi fare lo sborone non mi sembra tanto per la quale. No, qui da me prende un po' tutto, quasi tutto. Io adesso al telefonino c'ho Iliadi, e prende bene qua. Qua e anche in giro prende bene. E invece come mode c'ho il link, che dovrebbe essere appoggiato con la Tiscali. Sì, vabbè, magari nei paesi così può andare bene, c'è il ripetitore, qua nella zona mia chi prende di più è la TIM. Sì. E poi il modo che ho io lo posso staccare da qua e portarlo anche a casa tua, funziona. Ah, no, questo no, non credo. Io direi così, sì. Perché io per dire, se da qua me ne vado, non devo chiamare a nessuno, ne tolgo il filo della corrente, lo porto a un'altra casa, lo attacco e funziona. Questo non lo sapevo. Ce l'ho io quello, ce l'ho. Perché io quando ho fatto la domanda, pensavo che venivano, mi attaccavano l'antenna, su mi attaccavano e via. Mi avevo preparato anche il palo qua per attaccarmi l'antenna di internet. E invece mi hanno mandato solo il modem. Cazzo, gli ho chiamato e gli ho detto, scusate un attimino, ma non è che me lo devo installare io non ne ho antenna di fare quello. No, quello lì lo attacchi alla corrente, lo accende ed è già pronto, la scheda è già dentro. Per carità, bro, io. E funziona bene, ti dico che funziona bene. Guarda, non me ne sono pentito di averlo messo, infatti... E quella dove ho fatto la richiesta mi ha detto, dice, se poi non gli va bene gli ritiriamo quello e gli mettiamo quello con l'antenna, però va bene uguale, perché mettere antenne e fili? Infatti no, io guarda sinceramente qua nella zona dove sono io è raro che prenda bene altre compagnie, purtroppo, anzi addirittura mi hanno detto, se mi mettevo un'antenna e la puntavo verso Sorso, non mi ricordo che compagnia era, la prendevo bene, perché io lo vedo bene Sorso da qua. Magari c'è qualche antenna qua che gli fa da ripetitore. Allora, però poi invece si dileguato. Ecco. No, io qua c'ho due antennoni, c'ho dei ripetitori di, deve essere di internet o telefoni. E più da poco hanno messo un altro ripetitore più giù, sempre vicino qua, più giù, di 5G hanno messo lì, però non so neanche questo 5G se di telefonini, se di internet o quel cavolo è. Ma cosa ne so, fra, anche io non è che questo 5G, addirittura io ho preso il telefono nuovo praticamente è partito con il 5G che però non funzionava bene. Ma cioè no, allora dobbiamo riportare a 4G. Ho detto, ma scusate, questo G cos'è? Se il telefonino legge 5G, è evidente che il segnale c'è. Ma non è compatibile. Ah, ok, io sto comprando un telefono nuovo, però non è compatibile con la nuova linea che avete impostato. Ma detto, no, quella è fatta, però non tutti i telefoni sono predisposti a... E vabbè, ma io ho preso il telefono nuovo, questa è l'ultima generazione, non vedo il perché non naviga bene con il 5G, insomma non lo sapevo neanche loro. Perché le linee non erano ancora pronte del 5G, capito? Perché anche qua non prendeva prima il 5G quando è uscito. Poi hanno piazzato questa antenna qua e 5G riprende. Perché io ho il coso, il modem che va in 5G, c'è la scheda che va in 5G e sta funzionando bene. È evidente che c'è uno di quel ripetitore funziona. Sì, vabbè, io mi ricordo del 5G. L'hanno iniziato a piazzare nel periodo della pandemia, che praticamente erano tutti isolati in casa e loro stavano piazzando punti ripetitori. Neanche adesso, secondo dove va, 5G prenderà, neanche adesso, a meno che non c'è un ripetitore vicino, a fianco, che da voi è meglio non avere che sia il ripetitore, e fanno un casino della Madonna. Ma che facciano casino forse sui punti radio, probabile, non lo so, meglio non averne, sì, però vabbè, poi dicono ma le radiazioni, quello e quell'altro, guarda, siamo in un paese di matti. Quando hanno messo questi qua, questi due qua, ripetitori. Accendevo il baracchino e c'avevo il QRM 9920, tutto da questi. Un giorno li ho visti, sono andato e gli ho detto: ma scusate un attimino, ma come mai io c'ho le radio e non riesco a parlarci perché mi sta disturbando queste antenne? Ah, abbiamo capito, quell'antenna grande che c'ha sul tetto. E ha detto sì. E uno ha detto, dice, si può eliminare, però non glielo garantisco di farlo subito, dobbiamo prima controllare. C'è passato un anno e più, si è passato pagando l'anno fatto. Dopo un anno e qualcosa si è abbassato il QRM e andava a zero. Ho detto a quello lì l'ho rivisto e gli ho detto: ma ho messo a posto la vetta. Sì, perché ancora te lo fa. Ho detto no, adesso no, e non te ne farà più, perché erano, non so cosa ci avevano, che spurie, tipo noi quando facciamo TVI, mi? Sì, sicuramente c'era qualche spuria che dava disturbo, insomma. E tu lo raccoglivi con l'antenna, certo. Un casotto. Beh, Francolino, io niente, mi devo dileguare perché vado a mangiare ancora i cani. Poi devo prepararmi la roba per domani. E allora è già per la quale. Quindi devo mollare. Sono una mattina non me ne biscio. Ti saluto, Fra. Dai, sentiamo domani nel caso. Stamattina mi sono sentito con Gavino, però ci sentiamo stasera. Sicuramente ha preferito festeggiare San Valentino e va bene così, che è una cosa giusta anche. Capo, sì, quello sì. No, ci siamo sentiti anche noi stasera, dopo pranzo, ci siamo sentiti, che è rientrato da lavorare, l'ho sentito dal furgone. E poi abbiamo parlato per un bel po' e poi lui ha mollato, doveva fare cosa, e va bene così. E poi mi ha detto, dice, guarda, stanotte dice, ci sentiamo. Ho detto vabbè, però stanotte non si è presentato, vuol dire, come hai detto tu, sta festeggiando. Va bene, Tino, ci sentiamo, dai, buona giornata, buonanotte, buona giornata per domani, buon lavoro, ciao. Eia Fra, ma tu sentivi bene in furgone? Sì, ti dico una cosa, c'aveva il segnale sempre stabile, sempre a fondo scala. Vedi, vabbè, se nelle tue zone sì, ci sta, però bisogna provarlo un po' in lontananza, quella cosa lì. Comunque già va bene, tu metti a posto la tua, così almeno siamo a posto. Capo, no, sabato mi ha detto, dice, gli porto la radio e me la fa come ha fatto la sua, perché è uguale identica, e infatti gli ho detto, se te la porto, allora me la fai. Dice sì, guarda, la mia adesso arriva a 25 watt, arriva a massima potenza, e se arriva la sua riesce a fare anche questa. Sì, anch'io ho l'appuntamento al sabato, vediamo di mettere questo cavolo di filo, porca miseria, che questo cane sta uscendo e tocca lasciarlo o legato o dentro casa. Adesso c'è qualche cagna in calore, quindi sento l'odore, lui prende parte, però parte, si porta via anche il piccolino, camminano in strada, la gente magari si spaventa perché vede un cane grosso, e insomma, sono problemi, quindi adesso vediamo un pochino, se ce la facciamo sabato gli mettiamo questo filo qua, in maniera tale che se prende la scossa almeno decide di non oltrepassare il filo spinato. Va bene, Fabio, Fra, dai, sentiamo, dai, già ci aggiorniamo, vediamo un pochino poi cosa succede entro il fine settimana. Ok, va bene. Ciao ciao Tino, buonanotte. D'accordo, ciao Fra, buonanotte, ciao ciao, buonanotte. Buonanotte anche agli eventuali ascoltoni. Orecchi di porcetto. Non c'è nessuno. Vabbè, sì, effettivamente, magari il discorso che abbiamo noi non interessava e hanno spento, ma non c'è problema. Vabbè, Puscante interessava a noi, poi il resto non conta. Ciao. È vero, ciao ciao ciao, buonanotte.